Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Alla fiera di Rossi sta svolgendo EMO, la fiera internazionale delle macchine utensili, e quest'anno, come forse c'era da attendersi, l'argomento su cui la manifestazione ha scelto di mettere il focus sono le cosiddette tecnologie additive, per i comuni mortali la stampa 3D. A EMO ho incontrato Davide Scher, giornalista esperto appunto di stampa 3D, fondatore di replicatore.it e autore del libro Tutto quello che c'è da sapere sulla stampa 3D, titolo che non ha bisogno di spiegazioni. E allora ho chiesto a Davide Scher di aiutarci a capire quali sono le principali differenze fra le numerose tecnologie di stampa 3D oggi esistenti. Sentiamo com'è andata. Intanto, come per semplificare quello che dico sempre quando parlo di tecnologia, che hanno tutte in comune due elementi. Uno è che producono un oggetto fisico partendo da un file digitale, e l'altro è che lo producono a strati in modo additivo, quindi aggiungendo come delle fettine di oggetto una dopo l'altra. Quindi questi sono i due elementi che accomunano tutte queste tecnologie. Io nel mio libro ne ho contate una trentina, ne sono uscite nel frattempo 3-4 nuove, comunque ce ne sono 4-5 di base, le principali. La prima si chiama stereolitografia, è la prima che è stata inventata, e praticamente usa dei fotopolimeri, quindi dei polimeri che reagiscono alla luce, cioè le fette vengono formate solidificando la resina, queste resine liquide, con un laser. Quindi c'è una specie di vasca, esatto, diciamo, piena di questa resina. Questa luce incide sulla superficie e disegna la fetta. E poi cosa succede? E poi la vaschetta si alza o si abbassa, dipende dalla tecnologia. Viene ricoperta da un nuovo strato di questo liquido che viene di nuovo solidificato. C'è poi una variante, scusa, di questa tecnologia, sì, che si chiama DLP, che invece che disegnare la fetta con il laser proietta l'immagine della fetta con un proiettore digitale. È come se impressionasse una pellicola, esatto, in un certo senso. Esatto, e la risoluzione in questo caso è dipendente dalla risoluzione del proiettore, quindi questa tecnologia è adatta a fare oggetti magari molto piccoli, molto precisi. Queste sono le tecnologie stereolitografiche. E arriviamo all'altra famiglia a questo arriviamo punto. Arriviamo all'altra famiglia. Diciamo, la seconda che è stata inventata sono le tecnologie binder jetting, si chiamano, sono tecnologie a base di polvere, okay, dove la fetta viene creata incollando insieme la polvere, quindi c'è una vasca di polvere, la polvere viene stesa e un altro braccio incolla in maniera molto precisa la fetta, poi un altro braccio deposita un altro strato di polvere, la incolla, eccetera eccetera, finché l'oggetto non è finito. Queste tecnologie lavorano con il gesso, possono lavorare col cemento, possono lavorare con la sabbia, cioè si creano anche dei grossi stampi industriali con questa tecnologia. Questa può lavorare anche con i metalli, per inciso, che però poi devono essere, diciamo, sintetizzati, cioè devono essere poi sciolti. Sì, in pratica tutte queste particelle restano incollate fra, esatto, loro. Per rendere più solido questo incollamento si scalda tutto, in modo che queste particelle, esatto, si fondono fra loro. Esattamente, quindi definitivo. Si può lavorare anche con la ceramica nello stesso modo. E quindi questa è un'altra tecnologia. La terza è quella che tutti conosciamo, diciamo la fusione di filamento, no? La conosciamo tutti perché è la prima che è arrivata a prezzi molto bassi. Poche centinaia di euro, certo. Sistemi più semplici, ci sono addirittura dei kit fai da te per montarsene. Assolutamente, no? Sì. Ovviamente queste macchine arrivano anche a diverse centinaia di migliaia di euro, però la tecnologia di base è sempre la stessa. Tu hai un filamento, in questo caso non è un fotopolimero ma un termopolimero, cioè reagisce al calore. Semplicemente viene scaldata, sì. Questo filamento viene scaldato sulla punta, sciolto, si scioglie, insomma. E la fetta viene disegnata da questo estrusore che disegna la fetta con il filamento fuso, insomma. Questa tecnologia dà il vantaggio che puoi usare molti materiali veri, non, cioè mentre le resine sono materiali, diciamo, simulati quasi, cioè simili al materiale finale, ma che sono... si vuole emulare, diciamo, esatto. Invece qui proprio puoi usare il vero ABS, dei materiali anche tecnici molto, con delle proprietà molto importanti, quindi in questa tecnologia puoi produrre oggetti anche finiti, mentre con le resine molto meno questa cosa si può fare. La quarta tecnologia è quella, diciamo, che oggi è la più importante di tutti, perché è quella industriale, quella che viene già usata a livello industriale, si chiama sinterizzazione laser, e poi, come vedremo quando si parla di metalli, fusione laser, quindi sinterizzazione laser selettiva, SLS, oppure fusione laser selettiva, selective laser melting, quindi SLM. Questa tecnologia funziona un po' come quella che abbiamo detto di binder jetting, cioè usa una polvere e queste polveri, invece che essere incollate, vengono sciolte con un laser, vengono scaldate e sinterizzate, quindi non sciolte completamente ma solo fino al punto in cui le particelle di polvere si incollano, aderiscono, una con l'altra, esatto. Aderiscono l'una all'altra. E quindi questa tecnologia 90% usa il nylon, e il nylon è un polimero che ha delle proprietà importanti, quindi ci si può fare qualcosa che poi viene sottoposto a degli sforzi significativi, esatto, no? esatto, molto resistente, elastico, e poi ci sono i materiali addettivati come quelli di cui parlavamo prima, il cosiddetto waveform. Mentre invece quello che il settore che sta crescendo di più in assoluto è quello del selective laser melting dei metalli. In questo caso, diciamo, la particolarità è che la polvere viene fusa completamente e quindi permette di realizzare già oggetti che sono comparabili a quelli realizzati con le tecnologie tradizionali. Questa è la tecnologia che in questo momento sta crescendo di più perché offre veramente tantissime possibilità in termini geometrici. Rientriamo in studio ma solo per salutarci e darci appuntamento a domani. Parleremo ancora di stampa 3D con Davide Scher. Buona serata.